1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti, sempre più forte lo schema Allegri che vale sempre, eh? Dai, razza di debosciati, forza, andare a lavorare! Vi ricordo che oggi parleremo di attualità politica, una riforma al mese, così ha promesso Renzi, ma c'è un po' di problemi a creare la squadra di governo, tra l'altro oggi sui giornali, ragazzi, roba da piangere oggi i giornali. Paginate con queste fotine, Toto Ministri, per carità, tutti ci divertiamo a guardarle, ma il senso che ne viene fuori, il senso di una pochezza del racconto di quello che è questo paese, perché quando ci sono 5 pagine di seguito per capire chi è il ministro dell'economia, e basta, 5 righe anche bastano, no? Vabbè, comunque, finito questo sfogo, oggi parleremo di politica. Carlo Stagnaro ci sarà con noi, sarà con noi alle 8:15, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Una riforma al mese davvero possibile? Avremo anche Ivan Scalfarotto del PD, avremo alle 8:45 il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta. Questi gli ospiti dalle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 18 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: incarico a Renzi, subito le riforme. Il Corriere della Sera, le tre riforme chiave di Renzi: lavoro, burocrazia, fisco, l'obiettivo governo entro sabato. Repubblica, Renzi, il governo tra una settimana. La Stampa, tasse, ecco la riforma Renzi. Il Fatto Quotidiano, la guerra dei ministri, Renzi finisce in barca. E qua iniziano i titoli per quei nostri disgraziati di colleghi. Un abbraccione ovviamente a Giuseppe Cruciani, che l'hanno combinata grossa con un finto Vendola. Andro Mercu, che ha chiamato... fingendosi Vendola e ha incastrato Barca. Pressioni sporche su Renzi, titola così il giornale. De Benedetti con l'annunziata interferisce sulla scelta dei ministri. È tutto per la telefonata finta, eh? Libero, il governo Renzi lo fa De Benedetti. Questo infatti ha detto Barca, ho subito le pressioni di De Benedetti al nostro finto Vendola. Nell'agenda di Renzi una riforma al mese, questo è il titolo di Avvenire, mentre l'Unità apre così: Renzi c'è, la squadra ancora no. Soccorso Rosso invece è il titolo del manifesto, la vittoria di Pigliaru in Sardegna, lucida lezione del voto sardo, questo il titolo. Io voglio partire, ripeto, sono tante, tante paginate sui Toto Ministri, dopo un po', ripeto, mettono molta noia. Detto questo, che cosa troviamo sui giornali? Partiamo dalle cose interessanti, concrete della politica. Per esempio, sia il Sole, sia il Corriere della Sera, sia il Fatto Quotidiano fanno una pagina sull'eredità del governo Letta, o meglio della legislatura Letta, cioè il pantano che si è creato all'interno del Parlamento per 8 decreti che devono essere approvati entro il 28 di febbraio, dunque 15 giorni, altro che una riforma al mese. Insomma, questa è la cosa più concreta da fare adesso. Missioni all'estero, salva Roma i decreti in bilico, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera con Dino Martirano a pagina 12. La Camera, scrive il Corriere, quasi fuori tempo massimo, sblocca il decreto mille proroghe grazie a una fitta rete tessuta dal PD, che ha accettato di alleggerire il testo, riuscendo così a convincere Lega, Movimento 5 Stelle e SEL a rinunciare all'ostruzionismo, anche perché il problema e il motivo tecnico della confusione risiede nel fatto che in mezzo al guado della crisi di governo l'esecutivo uscente ancora in carica per gli affari correnti non può porre la fiducia sui singoli provvedimenti. Ecco dunque che i provvedimenti devono essere approvati entro la fine di febbraio, e c'è il decreto svuota carceri che scade il 21 febbraio, il decreto destinazione Italia scade il 21, il decreto sulle missioni internazionali c'è un po' più di tempo, il 17 marzo, il decreto sugli stipendi degli insegnanti scade il 24 marzo, il decreto salva Roma invece urgente deve essere convertito entro il 28 febbraio, altrimenti va a gambe all'aria il sindaco Marino e l'intera giunta capitolina. E poi c'è il finanziamento pubblico ai partiti, in scadenza il 26 febbraio. Questo è l'ingorgo senza precedenti e non si può porre la fiducia per motivi costituzionali, proprio perché il governo è in carica per sbrigare gli affari correnti e dunque di fronte a una possibile ostruzione delle opposizioni si rischia di far saltare il banco. Allora cosa è successo? Ieri per esempio sono stati presi alcuni provvedimenti, è stato per la prima volta grazie a un emendamento della Lega. Dopo 34 anni del terremoto dell'Irpinia è stato cancellato il commissario ad acta per la ricostruzione e anche la gestione commissariale dei rifiuti di Palermo. È saltata poi, grazie all'emendamento di SEL e il Movimento 5 Stelle, la proroga per il ricorso alle fonti rinnovabili nella realizzazione degli edifici e delle ristrutturazioni. Ma insomma, la situazione è complicata, palude decreti, titola così anche il Fatto Quotidiano, la Camera vota forse i tagli ai partiti, il Fatto Quotidiano si concentra soprattutto sul finanziamento pubblico ai partiti che entro il 26 febbraio deve essere approvato. I tempi tecnici, secondo qualcuno, certamente non ci sono, mancano 8 giorni, non ci sono e dunque slitterà il decreto legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Staremo a vedere, mancano 7 giorni, ripeto, a questo e manca poco più di 10 giorni alla fine di febbraio, che è la prima data data da Renzi per le riforme costituzionali. A proposito di campagna, visto che ho parlato prima del terremoto dell'Irpinia, vi voglio segnalare questa bel reportage sulla Stampa a firma Niccolò Zancane, è andato a Sarno in provincia di Salerno dopo 15 anni dopo la terribile alluvione il 7 maggio 1998. Ebbene, dopo 15 anni Sarno, 15 anni per dare una casa all'ultimo sfollato. Parte da qui il racconto della Stampa. Mancano ancora i citofoni, il contratto di proprietà, sottigliezze, ma oggi è un gran giorno per Stefano Criscuolo. Dopo 15 anni dalla colata di fango che gli ha portato via 14 parenti, avrà finalmente la casa della ricostruzione. È l'ultimo del lotto A21. Sarno, campagna interna, Italia, dove due mucche morte si erano andate a incastrare in mezzo ai rami di questo platano, a 100 metri dalla cascina dove lui stesso, di ritorno da un lavoro da carpentiere, aveva scavato a mani nude per 30 ore consecutive, prima di riuscire a trovare la madre, Francesca, la moglie, Maria, il figlio Giovanni e poi lentamente tutti gli altri. Ora ricorda questo signore, c'erano solo soccorritori improvvisati, io supplicavo quello sulla benna di andarci piano, non è bello vedere i corpi presi in quel modo. E poi solo io sapevo dove trovarli, infatti erano ancora lì in bagno, in camera da letto, davanti al camino. Non pensavano di essere in pericolo, alla fine furono 137 morti. La commozione, lo sdegno, le promesse, tutto uguale a sempre, scrive la Stampa, ma in realtà... Al di là della vicenda di Stefano Criscuolo, che ha ottenuto la casa dopo 15 anni, scrive la Stampa con Niccolò Zancan, questo è un posto di quelli in cui fare domande non restituisce grandi soddisfazioni. Sentite, per 4 giorni abbiamo chiesto al commissario per la ricostruzione il resoconto dei lavori eseguiti, quello dei soldi spesi, essendo il sito ufficiale dell'Arcadis, emanazione regionale per la ricostruzione, del tutto sprovvisto di queste informazioni. Al 5° giorno, finalmente, il commissario Flavio Cioffi ci risponde. E risponde così, 2 punti, aperte virgolette, testuale. La vostra domanda, apparentemente semplice, non può contemplare una risposta concisa. Anche la stessa messa in sicurezza del territorio è un errore concettuale. Noi parliamo di mitigazione, ma la sicurezza è impossibile. Il mestiere delle montagne è franare. Questo il commissario della ricostruzione di Sarno. La domanda sui soldi spesi, apparentemente semplice, non può contemplare una risposta concisa. E poi anche la messa in sicurezza, il mestiere delle frane, delle montagne, è franare. Ancora continua La Stampa, l'inchiesta la trovate a pagina 10 e 11, si sente la storia di Antonio Milone dell'associazione Rinascere, professore delle medie, un combattente da queste parti, uno che ancora cerca risposte, dice sappiamo di aver perso 100 milioni di finanziamento europeo perché il progetto non è stato presentato in tempo utile. Del resto la normativa per la ricostruzione delle nostre case è andata a regime dopo 5 anni. All'inizio avevano detto che la rete dei canali e delle vasche sarebbe stata ripristinata in 180 giorni. Eccolo qui. E si continua su questo tenore. D'altronde il mestiere delle montagne è franare. Rimango in campagna per una veloce notizia che vi metterà di quelle che vi mette più di buon umore. Certo che se siete in macchina vi invito come al solito a tenere le mani ben strette sul volante, perché ci sono i particolari dell'ultima vicenda presunta, per carità, bisogna essere garantisti, presunta del consigliere della campagna Gennaro Salvatore, arrestato ieri, la solita accusa, uso di spese proprie con soldi nostri, rimborsi suoi, soldi nostri. E c'è di tutto, secondo l'accusa ci sono i chewing gum, la bombola del gas, ci sono le cene, ci sono i prodotti per la cura della persona, compresi, ecco qua, qui c'è la bizzarria, compreso Gennaro Salvatore, una spesa per tintura di capelli. E voi dite, che male c'è? Guardatelo in foto, c'è un piccolo problema, questo signore è pelato. Ma questa è la straordinarietà della politica italiana, rimborsi in regione Campania per la tintura dei capelli per un consigliere pelato. Andiamo in pubblicità, va. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto. Grande, grandissimo il Gabibone. Evviva il Gabibo. Allora, dobbiamo raccontare le pagine che sono presenti sui giornali, sui quotidiani italiani per quel che riguarda la situazione di governo. E dunque Matteo Renzi è andato da Giorgio Napolitano ieri, 80 minuti di colloquio, e poi ha accettato l'incarico con riserva per formare il governo. Mettetevi comodi perché sarà una settimana di chiacchiericcio insopportabile sui giornali. Troverete oggi ci sono 4 pagine del Corriere della Sera, 4, che iniziano, che aprono sul tema del Ministero dell'Economia, che è il ministero chiave. Lo so, lo sappiamo tutti, è il ministero chiave, bisogna andare in Europa anche a negoziare, è quello che tiene i conti, la spesa pubblica, lo sappiamo. Però insomma 4 pagine dell'economia dedicate a questo in varie varianti. Forse è un po' troppo, ma dico, sarà una settimana così perché Renzi ha fatto capire che ci vorrà qualche giorno. Il timing è entro sabato, dovrebbe arrivare il giuramento, e dunque qualche giorno e chiacchiere che continuano. Incarico a Renzi, priorità al lavoro, questo è il titolo a pagina 3 del Sole 24 Ore. Che cosa ha detto Renzi? L'abbiamo sentito, ne parleremo, approfondiremo anche alle 8:15, e cioè una riforma al mese. Il timing è certamente molto molto ambizioso, sta di fatto che anche Emilia Patta sul Sole 24 Ore a pagina 3, subito dopo il resoconto dell'incontro con Napolitano, si lancia subito nel toto ministri. Allora all'economia si è sondato per esempio Romano Prodi, che ha declinato, si è sondato Piero Fassino, che però ha declinato forse anche lui. Circola il nome dello stesso Del Rio, fedelissimo di Matteo Renzi, che forse lo stesso Renzi vorrebbe mettere al ministero chiave dell'economia. Poi c'è tutto il giallo barca, tra poco ne parleremo, perché la zanzara ne ha combinata una delle sue. E poi ci sono tutti i resoconti, appunto, di retroscena, per esempio sul Corriere della Sera, pagina 3, Aldo Cazzullo, il sindaco e il viaggio con la lista dei ministri. Dopo aver incontrato Giorgio Napolitano, Matteo Renzi prima grana è sulla questione della macchina. Ecco, ci si deve concentrare sulla macchina. Si è presentato con la Giulietta a noleggio. E perché no? Ma non puoi farlo. Ormai sei il presidente del Consiglio, gli dicono fonti della polizia. Ti devono scortare. Ma no, guardate, a me la scorta non mi garba. Non la voglio, grazie. La mia scorta è la gente. Ma non si può, caro Renzi. Ma io non voglio violare la legge, mettere in difficoltà uomini dello Stato che fanno il loro lavoro, ma non voglio neppure dare al paese l'impressione di un uomo che il giorno stesso in cui va il governo cambia status, immagine e stile. Non posso e non voglio passare dalla bicicletta all'auto blu. Io son di Rignano, sono sempre stato in mezzo alla gente e continuerò a farlo. Ecco, questo per dirti, per dirvi l'inizio dell'articolo di pagina 3 del Corriere della Sera, il resoconto di ieri. E poi appunto anche qui circolano i nomi, secondo Aldo Cazzullo al lavoro c'è Mauro Moretti di Trenitalia, abbastanza certo per il momento, ma tutto è in evoluzione, quindi manco l'unico nome certo che viene dato per certo è sicuro, perché è tutto in evoluzione. E anche per Repubblica due pagine, pagina 2 e 3, nelle quali trionfa ancora il barbiere Tony che alla fine abbraccia Matteo. Non ce la faccio a venire da te stasera, gli dice Matteo Renzi ieri a Firenze, ma visto che fai le interviste e non mi avverti, beh, fai bene, dai Tony, fai bene. C'è anche questo, un po' di colore nel viaggio che ha fatto. La verità è che racconta il Corriere della Sera, racconta anche la Stampa, gli 80 minuti di colloquio tra Napolitano e Renzi hanno visto i giornalisti protagonisti a scervellarsi, a dire ma che cosa si saranno detti, perché un colloquio così lungo. Ci sono le versioni più edulcorate, cioè il Corriere della Sera e la Stampa appunto dicono che sono stati i consigli di Napolitano sulla squadra. A questo proposito Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere, a pagina 5 scrive che Napolitano ha dedicato particolare attenzione a tre dicasteri: la giustizia, per la sua veste di presidente del CSM, gli esteri, perché condivide con l'esecutivo la rappresentanza dell'Italia sulla scena internazionale, e l'economia, casella fondamentale per la credibilità del paese in Europa. In queste tre posizioni chiave Napolitano avrebbe detto ci vuole continuità. Così è anche il titolo della Stampa, la raccomandazione del Colle: continuità nei ministeri chiave, sia garantita la stabilità, dice Napolitano. C'è la versione un po' più dura del Fatto Quotidiano, che scrive praticamente il dettato di Napolitano a Renzi, gli detta i ministeri. Ecco, questo è il titolo a pagina 4, il dettato di Napolitano al nuovo premier studente, cioè la vede così il Fatto Quotidiano, un signore più attempato, il Presidente della Repubblica è più esperto, che detta al premier studente i paletti. Il primo riguarda l'economia. A proposito dell'economia, si è scatenato il putiferio per la telefonata della Zanzara con il finto Vendola che ha incastrato Barca. Lo ha chiamato e Barca si è lasciato andare a confessioni del tipo: mi hanno fatto pressioni di tutti i tipi, ma ho detto di no. E chi ha fatto pressioni? A farmi pressioni il padrone di Repubblica, cioè Carlo De Benedetti, attraverso dei giornalisti che mi continuano a mandare SMS. De Benedetti ha smentito: non lo sento da mesi, sono stupito, stupefatto. Viene tirata in mezzo anche Lucia Annunziata, direttore dell'Huffington Post, che dice: ho fatto solo il mio lavoro, ho cercato di capire, ho mandato dei contatti. Insomma, un gran casino. Toto Ministri, Barca cade nella trappola del finto Vendola, ho rifiutato l'economia, pagina 9 di Repubblica. Capite che nell'impazzimento generale, nella mancanza di notizie, nella mancanza della squadra di governo, questa diventa la notizia principale per Libero e Il Giornale. Il titolo di apertura, Il Giornale: pressioni sporche su Renzi. Libero: il governo Renzi lo fa De Benedetti. Il Libero dedica addirittura le prime quattro pagine a questa vicenda. Barca si tradisce, De Benedetti in pressing per decidere il governo. Anche il Corriere dedica una pagina: Barca tradito dalla radio, cioè da Radio 24 alla Zanzara, mi vogliono al governo ma non ci penso proprio, mentre il Fatto Quotidiano mette tutto lo sbobinato della telefonata a pagina 3 tra il finto Vendola Andromercu, il nostro Andromercu, e appunto Barca. E poi c'è sempre il gossip. Insomma, questa storia della Giulietta Bianca. La Giulietta Bianca è andata in Giulietta Bianca, non in Smart, ma secondo il giornale è un'auto blu. Qua si apre un nuovo fronte. Il giallo, la Giulietta Bianca è un'auto blu. Pagina 3 del giornale, in realtà non è sua, racconta Clarissa Gigante, è intestata alla Fiat e sarebbe noleggiata dallo Stato. Quindi sarebbe una sorta di auto blu. Cosa devo aggiungere a questo? Volete il quadro del panorama completo per capire un po' la pochezza del dibattito in questo momento? Cioè non ci sono articoli su cosa vuol fare Renzi, perché nessuno lo capisce, se non una riforma al mese. Il dibattito arriva ai minimi termini con la pagina 2 del Secolo XIX, chi spunta nel toto ministri? C'è sempre, a un certo punto spunta sempre Roberto Saviano, ministro alla giustizia. Secondo il Secolo XIX, di fronte ai tanti no, Renzi chiederà a Roberto Saviano di fare il ministro alla giustizia, o perché no alla cultura. E, ripeto, massimo rispetto per lo scrittore Roberto Saviano, ma spunta sempre a un certo punto nei toto ministri, nella formazione di governo, tac, come un fungo Roberto Saviano viene fuori. E poi, insomma, per condire il tutto, manca solo la nonna. C'era la madre di Renzi che era giunta dalla stampa, lo ha affidato alla Madonna, ora la nonna Maria Bovoli, 94 anni, che non si è mai sentita in odore di rottamazione, ironizza così Il Giorno. È lei la nonna, infatti, del rottamatore. Dice: non ho visto la scena in TV, avevo tante cose da fare, ma poi recupero con il telegiornale. Ho un'enorme fiducia in Matteo, sono convinta che possa fare il bene dell'Italia. Tutti i giorni prego per lui, che lo Spirito Santo lo guidi e lo illumini. Ora ne ha proprio bisogno. Così la nonna di Matteo Renzi sul Quotidiano Nazionale. Mauro Meazza, aiutami tu, caro Mauro. Sì, no, facciamo svelto, non vorrei che mi chiamassero per fare il ministro dell'economia. Sono il presidente Vendola. No. Perché poi quando chiamate voi succede sempre qualcosa. Va bene. Quando allora chiama Radio 24 succede sempre qualcosa. Ecco, esatto. No, facciamo una svelta perché vedo che i candidati per il ministero. No, ma soprattutto ecco, devo dire che io lo dico, sono forse un po' la pochezza del dibattito oggi, non guardare i giornali in generale, paginate e paginate sull'auto blu di Renzi, l'auto bianca, l'auto blu, la nonna, Saviano ministro, quello ministro, una roba veramente, vabbè, dai, andiamo avanti. Allora guarda, ti do qualche cosa di diverso. Innanzitutto, hai sentito che c'è questo pasticcetto del 20% di prelievo sulle somme che arrivano dall'estero in Italia? Sì. In modo legale, stiamo dicendo, roba banca da banca, cose tutte trasparenti. Ecco, lo spiega qui anche la UE, adesso ha chiesto un po' di spiegazioni. Intanto lo spieghiamo sulle pagine di Norme e Tributi come funziona. C'è stato un po' un allarme, forse più della rete che del prelievo stesso, però insomma è importante documentarsi se si è in questa situazione, anche presentarsi in banca a spiegare perché non farsi applicare o invece se va applicato questo 20%. È un po' un pasticcetto. E poi l'IMU, si torna a parlare di IMU, no, questa volta ancora. Gli enti non commerciali, sì, i partiti, le scuole, i sindacati, le associazioni, certo. È pronta pagano. La bozza del modello, no, adesso c'è la bozza del modello, quindi insomma il modello di dichiarazione, poi da lì si andrà a pagare, però non ti voglio sciupare la sorpresa, vai nelle pagine Norme e Tributi, lì ci sono tutte le anticipazioni su questa bozza dell'IMU. L'IMU è un'imposta che, come sai, è dura a morire. E poi cosa ti voglio dire? Guarda, si abbassano le tasse su auto, scooter, televisori, lavatrici, forni a microonde e telefonini. Oh, vedi una buona notizia. Ecco, vedi sì, vedi che ci media. Sono In India però. Io lo sapevo, porca miseria. Cioè sempre il dettaglio è nella coda, no? Nel veleno. Il veleno è nella coda sempre. No, non è colpa mia, però raccontiamo in India, nel New Delhi, taglia le imposte sull'auto e l'elettronica, c'è una riduzione dell'IVA. No? Per un attimo. No. Diciamo questo tra l'altro durerà poco anche da loro, perché poi a maggio si vota da loro in India, no? Esatto. Quindi anche il tempo di andare lì a comprarsi una lavatrice e tornare dall'India con... Mi sembra un pochino complicato, onestamente. Senti, e poi una nota un po' così in economia, nelle pagine di Imprese e Territori, l'inchiesta di Roberto Iotti di infiltrazioni delle mafie che adesso fanno addirittura prestiti alle aziende, cioè per battere, si mettono in concorrenza con le banche per battere il credit crunch, naturalmente. L'ho letto, poi... è impressionante questa cosa, cioè per combattere infatti il credit crunch si mette la malavita, no? Addirittura a fare il lavoro. Sì, e questo apre poi degli scenari molto preoccupanti, racconta bene Iotti nelle pagine di Imprese e Territori di oggi. Vabbè, volevo chiudere con una nota lieta, ma non l'ho trovata. Una nota lieta, vabbè, insomma, l'abbassamento delle tasse in India. L'abbassamento delle tasse in India, e anche le elezioni, ti segnalo, a breve. Sì, in India, va bene, questo tuo insiste sulle elezioni, ti fa passare subito per sovversivo, verrai segnalato ai corazzieri del Quirinale. Possono chiamarmi adesso per il Ministero dell'Economia? Adesso no, te lo sei giocato. Occhio se chiama Vendola, ti dico solo questo. Segretariato. No. Vabbè, niente. Mauro Meazza, sottosegretario allo sport. Io ministro perché sto in Champions League. E tu sottosegretario, va bene? Va bene? Okay. Beh, tu hai il nome anche giusto. In qualche modo. Vabbè, però io più super parte. Anche tu, Milan e Meazza, va bene. Grazie Mauro, a domani, c'è il momento del traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il cavaliere Jedi dell'informazione. Vabbè, insomma, ormai vi state sbizzarrendo. E allora, cari ascoltatori, mentre si parla e c'è il chiacchiericcio sul Toto Ministri, che succede invece oggi a Roma? Ci saranno decine di migliaia di commercianti, artigiani, piccoli imprenditori da tutta Italia, guidati soprattutto dal popolo del nord-est del paese e sotto la sigla di Rete Imprese, sfileranno. Rete Imprese Italia, Confesercenti, Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, sono previsti 400 pullman, 7.000 posti in treno, 2.000 in aereo, arriveranno a Roma per manifestare e chiedere una svolta concreta nella politica economica italiana. Oggi sul giorno viene intervistato il presidente di Rete Imprese Italia, Marco Venturi, tra i promotori della protesta, dice: scendiamo in piazza, in questa intervista di Nuccio Natoli, scendiamo in piazza perché non ce la facciamo più, ci aspettiamo risposte serie e concrete, resta una protesta a tutto tondo perché i problemi, i drammi che stanno uccidendo artigiani, commercianti, piccole e medie imprese sono tutti sempre lì. Però non c'è più un governo contro cui protestare. Mettiamola così, risponde Venturi. La protesta è anche un monito per il presidente incaricato e per i partiti. Tutti devono prendere atto che fuori dalle stanze della politica c'è un paese che sta soffrendo e non ce la fa più. Quelli, i temi che poniamo sono il peso fiscale che tra nazionale e locale non è più sostenibile, la necessità di una semplificazione burocratica che alle piccole e medie imprese costa oltre 30 miliardi di euro l'anno, l'allentamento del cappio del credito che sta asfissiando tutti, un ritorno a un sistema di legalità che colpisca al cuore la corruzione, questo solo per citare gli interventi più urgenti e necessari. È il minimo che ci aspettiamo, non è poco. Però sono nate anche migliaia di altre imprese, chiede il giorno, vero, ma il saldo tra chiusure e nuove aperture supera le 40.000 unità. Questo è il quadro reale che ha spinto per la prima volta nella storia gli imprenditori a decidere di scendere in piazza. Quindi la manifestazione è anche un avvertimento a Matteo Renzi, non solo a lui, ma a tutti i partiti. Così parla Marco Venturi, il presidente di Rete Imprese Italia. Oggi sfileranno a Roma, mentre per la cronaca, certo, ci sono tanti dettagli e tanti particolari di questo dirottamento aereo che è avvenuto, di un aereo etiope partito dall'Etiopia con 139 italiani a bordo, un dirottamento del copilota. Arrestato poi, i nostri caccia, fanno sapere gli italiani, erano pronti a sparare. perché il rischio era anche un dirottamento per motivi terroristici. Poi si è scoperto in realtà che il copilota evidentemente voleva fuggire dall'Etiopia e ha sfruttato insomma il suo lavoro per poi, anche quando è stato dirottato e scortato in Svizzera, un tentativo di scappare, anche calandosi con la corda dall'abitacolo dell'aereo. Però certamente, al di là di questo, sono stati momenti di terrore, con le foto anche che trovate sui giornali, le foto delle persone che dirottate hanno scattato con i telefonini all'interno dell'aereo i momenti di panico che sono stati vissuti in queste ore. L'altra notizia di cronaca che mi ha colpito la troviamo sul Corriere della Sera e su Il Fatto Quotidiano. Elena Tebano ne parla, pagina 23. Che succede in un liceo di Torino? In un liceo di Torino la preside, la dirigente, applicando un decreto legislativo del 2008 che obbliga i datori di lavoro alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, questo recita il decreto, ha imposto agli insegnanti di fare l'alcol test e quelli si sono rifiutati. Gli insegnanti che non vogliono fare i test anti-alcol. Gli insegnanti sono del liceo Regina Margherita di Torino, hanno deciso di usare l'ironia. Ieri mattina alle 10 hanno organizzato la colazione berlinese a base di prosciutto, salame e spumante, in maniera anche un po' provocatoria. Volevano protestare contro i test per l'alcol imposti ai 130 docenti dell'istituto. Qualcuno ha provato a rifiutarsi, ma la preside mi ha detto che avrebbe dovuto sospendermi. Ma insomma, questa preside che sta applicando una normativa, ma ha creato un po' di panico con questa decisione. Gli insegnanti non vogliono fare gli alcol test. Questo è quello che trovate sul Corriere della Sera. E poi c'è ancora la vicenda Vladimir Luxuria che è a Sochi in Russia a protestare. Alessandra Retico la intervista sul quotidiano Repubblica, fermata a Sochi due volte perché lotto per i diritti civili, mi hanno fatta salire su un'auto, mi hanno portata in commissariato. Non mi hanno trattata male, ma non è stato certamente piacevole. Ho preso un taxi, sono tornata in albergo, ma non ho dormito. E poi un'altra giornata ho parlato col console, mi ha consigliato di essere cauta, mi ha dato il numero di un avvocato, sono stata prudente così come mi ha suggerito, non ho portato con me bandiere ma solo una frase imparata a memoria. Ma insomma, lei non desiste mai, il coraggio è la mia vita, dice Vladimir Luxuria. La sportività è accettare che altri abbiano anche orientamenti sessuali diversi dai tuoi. E Sochi dice: guardate che impianti moderni sono bellissimi, ma credo che questa modernità strutturale debba essere accompagnata da un avanzamento della coscienza collettiva. Insomma, Vladimir Luxuria che continua a battersi lì in Russia. Il giornale la prende in giro. Luxuria fa la iena in Russia, prigioniera? Sì, del ridicolo. Vabbè, il giornale la mette così un po' sbeffeggiandola. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scoperto sui giornali di oggi. E ancora, per il secondo giorno consecutivo, vince il Messaggero. No, perché Renzi in tutte le salse, ma neanche la geografia di Renzi. Eccolo qui il caso del come si veste Renzi, dal jeans post paninaro all'abito scuro, la rivoluzione neo-kennediana del look. Stella prudente sul Messaggero poteva mancare l'analisi dello stile Fonzi, la giacca senza cravatta, l'abito scuro. Prima venne Matteo Fonzi in chiodo nero dalla De Filippi, poi Matteo in camicia bianca senza cravatta e maniche arrotolate stile Obama, per non parlare del Matteo rottamatore in jeans Roy Rogers anni 80. Ma chi se ne frega? Basta italiani, basta! La carta costa, ditelo, urlatelo alle finestre. Spacco anche il microfono qui, ma no, per sbaglio, no, teniamo, che il microfono costa anche quello. Andiamo in giornale radio.